Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Anche a me ieri è apparsa la Madonna e mi ha detto: ascolta la zanzara. Siamo al top, siamo al top! Mauro, stai calmo. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora ragazzi, Michi Vendola, ex governatore della Puglia, annuncia in un'intervista che lui e Ed, insieme al figlio che sì, è nato, Tobia, sono fuggiti in Canada per garantire futuro e diritti a nostro figlio Tobia. Certo. Ma cosa certo? Cosa normale, certo? Comprensibile. Ma perché visto, in Italia che succede? Ho letto l'intervista all'ottimo Merlo. Viene perseguitato in Italia? No, perseguitato, in Italia. Canada è un paese con più diritti. Ma è un paese in cui il nome di Tobia non è stato lordato. Ma perché non è italiano? Che vuol dire? Perché non è canadese? Perché se Tobia un domani dovesse leggere le porcherie che hanno scritto su di lui. Ma cosa c'entra? Si vergognerebbe del nostro paese. Vabbè. Quindi giustamente in Canada, che è un paese più civile, lui è più garantito, ci sono più diritti per questo tipo di situazioni. Ma non è vero. Cioè, diciamo che in Canada la situazione è come quella di Tobia, del giovane Tobia, è meno anomala di quanto non lo sia in Italia. Mai? Questo è il senso. Come quando mai? Senti, è un ragazzo, un bambino che ha questo 3 passaporti, è un privilegiato rispetto ad altri. Cosa vuol dire? Ha tutte le possibilità di vivere tranquillamente anche in Italia. Ma forse lasciamo sta perdere. Meglio lì. Ma non lo so se sta meglio lì. L'idea della fuga perché l'Italia, che è un paese dove non può. Ma dai, su. Poi scusa, dice tra l'altro: io sono favorevole al fatto che abbiano fatto questo figlio, parentesi. Favorevolissimo, come sapete, all'utero in affitto. Ma io ho dei dubbi, ma senti, invece. Appunto, noi non vogliamo fare i testimonial di una battaglia di civiltà, ma soltanto giusto poter vivere in pace. E che fai? 2 pagine su Repubblica con le foto? 2 pagine con le foto e dici non vuoi fare il testimonial. Ma dai ragazzi, ma è veramente insopportabile questa retorica. È una retorica insopportabile. Ha fatto benissimo a fare un figlio, sono favorevolissimo all'utero in affitto, però l'Italia non ci assicura diritti, andiamo in Canada. E l'altra cosa è non voglio fare il testimonial e poi 2 pagine. Ma dai, su. Allora, dopodiché le persone che hanno sparato contro il figlio ci sarebbero stati pure in Canada con un figlio canadese, cioè quelli contro queste pratiche ci sono pure in Canada. Vogliamo ricordare qualche intervento contro Vendola qui alla Zanzara, naturalmente? Sentiamo, Partiamo da chi? Da chi partiamo? Da chi partiamo? Vediamo se lo riconoscete. Che ne pensi degli omosessuali? Allora, gli uomini sessuali maggiorenni mi va bene, a me non mi piace il discorso che adottino dei figli. Per me dire a Vendola, ti dico, io gli farei una castrazione chimica e lo impalerei, punto. Lo impalerei, è difficile trovare il palo grande. Ma io spero che lo querelino, però veramente buttino via la chiave. Ma che mi querelino, guarda. Ma come si permette? Lo impalino. Ascoltami una cosa, uno che adotta i bambini per me va castrato chimicamente, capisci? È impalato, è impalato pure dici. È impalato anche. Era il signor Polegato, te lo ricordi il signor Polegato? Come no, ma ci saranno dei Polegato anche in Canada, cioè ci saranno non credo, molto meno. Cioè i Polegato, ma in America c'è il Ku Klux Klan in America, ma che vengono, dici, dai? Sì, però c'hanno il biasimo totale, ma qui quando invece mai? Sembrano dei ma non dire stronzata. Qui questa gente qui sembra la metra panse. Ma quale metra panse? Taormina contro Vendola, senti Taormina contro Vendola, senti. Lo arresteresti? Ma guarda, sta cosa dell'utero in affitto è veramente una cosa di una gravità unica. Lo arresteresti o no? Lo arresteresti o no? Io sì. Lo arresteresti. Sulla base di che cosa, però? In Italia non si può. Come? Ma non si può, non è reato in Italia, non c'è nessun legame. Ma gli toglierei pure. Che cosa? Gli toglieresti il bambino, non ho capito. Certo. Taormina, gli toglierei il bambino. Sì. E certo. Mamma mia. Pure Sgarbone su Vendola, Non può essere un figlio, da alcuno non esce niente, quindi non so come sia. Il bambino diventa nient'altro che lo strumento di un capriccio di due che vogliono fare il padre e la madre. Bisogna sottolineare che Vendola vive in Canada, adesso temporaneamente gode anche dei soldi, 12.000 euro al mese di due vitalizi che noi abbiamo elargito anche molto generosamente, diciamo la verità, secondo la legge, molto generoso questo vitalizio, Detto questo, i Taormina, i Polegato, gli Sgarbi, in questo caso, esistono anche in Canada. Cioè, pochi. Ma chi te l'ha detta questa cosa? È pieno vengono di vengono perché nei paesi civili vengono emarginati. A proposito di Sgarbi, si è scoperto, in realtà molti lo sapevano, che deve un sacco di soldi a Di Pietro. Beh, sì, ho letto mio, questo. Un sacco di soldi, pare da tra i 2 e i 300 mila, da quello che mi risulta. Sentite, Cusano Campus. Quanto le deve Sgarbi? Quanto deve sganciare? Ecco, lui non paga, semplicemente perché apparentemente nulla tenente. Ma posso chiederle quanto le deve Sgarbi? Qualche centinaia di migliaia di euro. Ah però. D'accordo, tra me e spese legali. Allora, tra cause perse per diffamazione e spese legali, tra qualche centinaia di migliaia, abbiamo fatto delle ricerche, in realtà tra i 2 e i 300 mila pare, tra i 2 e i 300 mila euro. Ragazzi. Sono 7-8 cause perse. Perché non paga Sgarbi? Di Pietro. Lui che fa sempre il saputello, fa sempre il primo della classe, fa sempre quello che capisce tutto. Ma non ha debiti solo con me, non paga nessuno. Se lei va a vedere, addirittura nell'indennità parlamentare che prende, gli hanno sequestrata la parte sequestrabile, prima che tocca a me, ci sono una miriade di altri creditori prima di me. Dico soltanto i cittadini, quando lo vedono pontificare per televisione, che sta tutto lui e fa tutto lui, che gli dicessero se e chi sono i suoi creditori, perché purtroppo non sono solo io, ci sono dei creditori invece che hanno molto molto più diritto di me di avere i soldi. Sgarbi è un mal pagatore, senti, non è affidabile. Io quando voi mi parlate di Sgarbi con quelli che sta tutto e fa tutto, è una persona comunque, quando si dice alle mie parti, quando uno è mal pagatore, quando uno non rispetti gli impegni, non è persona affidabile. Allora, compare che D'Alema voterà per Giachetti, almeno così dice uno dei dirigenti del Partito Democratico, della serie chi se ne frega, chi se ne fotte di chi vota D'Alema, chi se ne frega, lo dico a voce alta, io me ne sbatto i coglioni di chi vota D'Alema alle comunali di Roma, un dibattito di cui non mi frega nulla. Questo interessa a pochi probabilmente, sì, su questo hai ragione. No, ti dico una cosa, l'unica cosa interessante è il modo in cui Orfini, che è questo dirigente del PD, presidente del PD, questo famoso, che era alleato di D'Alema prima, no? Poi passare con Renzi, signor Orfini è stato accolto in un mercato del quartiere Giardinetti a Roma, quartiere Giardinetti a Roma. Ora, ovviamente non è che sia significativo di qualcosa, naturalmente, però. In galera dovete andare, i regni finiscono tutti prima o poi, anziché fate la fine di quello francese, beh, tagliamo proprio la capoccia a tutti quanti, brutti zozzi, ancora si presentano a fare pubblicità al PD. Senti, sì, da quando si è messo da solo, lui si è programmato, lui si è fatto tutto. Sì, mi pare il padre Paterno, c'è una faccia, ragazzi, che quando passa che se lo incontro gli dà una pizza in faccia. Però parli con me, no, corretto. Sì, però il braccio destro, su. Il braccio destro, però scusami. Ma ne vediamo in televisione da che lui. Tutto il giorno viaggiare, con Cruciani alla radio da ascoltare, anche se col traffico mi sento male, ho Parenzo da mandare a cagare, tutto il giorno viaggiare. La Zanzara. Comunque, pensandoci bene, Sgarbi rivendica un diritto non pagando, il diritto di parlare e anche, se volete, secondo i giudici, diffamare le persone. E poi, siccome si sente... Beh, ma non è un diritto però, sì, scusa. Sì, assolutamente sì. Finché, cioè, lui lo rivendica, ma non è un diritto insulto, sì, assolutamente, diffamare le persone. Ma no, ma lascia perdere. La diffamazione la mette secondo i giudici, secondo lui non è diffamazione, naturalmente. Sì, cioè, lui... è un'opinione secondo lui. Assolutamente, ma... secondo lui è un'opinione. Lui rivendica il diritto di non pagare e utilizzare tutti i mezzi possibili per non pagare. Vabbè, questo... è così, la realtà. Cioè, questa è la realtà. Siccome pensa che sono parole... che sono parole che lui può utilizzare. Ma le parole offendono però, come benissimo, tu pensai. Secondo alcuni giudici sì, lui contesta quel giudizio dei magistrati e si riserva si un altro condire. Diritto, quello di sfuggire a ogni modo e in ogni maniera. Però. Ma certo, come no? Quello sì, ma poi sono, devono il essere bravi gli altri a incularti, a prenderti i soldi. Se gli altri non sono in grado di prenderti i soldi, fanno un pignoramento, sì, beh, quello certo. Appunto, ma se non sono in grado, lo stipendio da parlamentare, ma se non sono in grado successo. Di farlo, uno si riserva il diritto di sfuggire alla legge. Di sfuggire alle sentenze. Beh, specie se le consiglio non giusto. Lo chiamerei diritto di sfuggire alla legge, ma c'è sempre questo legge. Diritto, poi tocca alla legge infinocchiarti, inchiappettarti, fermi tutti. Il tuo mito, il neo sindaco di Londra Khan, bravissimo. Il tuo mito assoluto, molto bravo, ha fatto la prima cazzata. La prima quale cazzata sarebbe? No, ma manco lo sai perché non segui le cose no, serie. No, ho letto i giornali, se reputi no. Una cavolata quello cosa? Che lui ha fatto. Cosa, dimmi. La cosa mi sembra veramente incredibile, cosa? Però dimmi. Non importa. Cosa? Insomma. Dimmi. Che cosa, dimmi, non lo sai, non sai questa cosa qua. Che non cosa? Lo sai. Ma non lo sai. Il Ramadan ancora con Ramadan. Ma non c'entra niente, ce l'avete? Non lo sai. Allora, ha vietato uno spot con una modella in bikini. Con le donne, per lo spot sulle donne. Sì, ma adesso lo stai ripetendo quello che dico no, io. No, l'avevo letto hai oggi, vietato ma non c'è. Uno spot con una modella in bikini. Allora, ha proibito sui mezzi pubblici. Non mi sembra male. Ma sei impazzito, sei? Non mi sembra male. Cioè, praticamente ci vuole un po' di educazione. Aspetta, Sadiq garbo, Khan come la Boldrini, sì. Come la Boldrini. No, chi l'ha detto come questo? No? Come no? Te lo dico io. Ha proibito sui mezzi pubblici l'affissione di un cartellone sì. Con una modella in bikini, un cartellone bello giallo sì, sì, sì. E la scritta "Il tuo fisico è pronto per la spiaggia", perché secondo lui crea aspettative irrealistiche sul corpo delle donne. Senti, a Sadiq Khan, ma vattene a fanculo dall'Italia, va, vattene a fanculo. Questi integralismi te li porti non so dove perché sei inglese. Portateli a casa tua. La tua figlia la fai vestire come ti pare finché è minorenne. Dopo deciderà lei, eccetera, eccetera. Ma cancellare una pubblicità di una donna in bikini semplicemente perché c'è scritto "il tuo fisico è pronto per la spiaggia" è una cosa da integralisti. Uno fa la pubblicità come vuole. Chiaro? Nessuno dovrebbe sentirsi sotto pressione mentre viaggia sui mezzi pubblici perché è circondato da aspettative irrealistiche sul proprio corpo. Voglio mandare un messaggio chiaro all'industria della pubblicità su questo tema. Una roba pazzesca. Manco la Boldrini è arrivata a tanti a livelli. Però coraggioso, devo dire. Era un cretino, dai, su. No, cretino. Mi sembra coraggioso perché in una patria come del liberalismo, come è l'Inghilterra. Ma perché devi violentare te stesso? Non capisco no, perché per appoggiare un personaggio. Non conosco. No, tu invece mi stupisci tu che sei il trionfatore del l'esaltatore del politicamente scorretto. Ma cosa, questo, sei questo contro, è politicamente cretino, no? Scorretto. Sei contro. Ma questo è politicamente cretino. Queste cose contro tendenza dovrebbero anche piacerti. Ma che contro tendenza? In realtà. Ma questo è il politicamente cretino. È Londra, politicamente cretino questo qua. Il sindaco di Londra che vieta una cosa così è curioso comunque. No, è politicamente cretino, non scorretto. Interessante e curioso. Ma che cazzo di aggettivi sono interessante e curioso? Io ma uso dei matti, queste guarda. Interessante no, e curioso. No, ma che vuol dire? Non vuol dire? Sono parole vuote. Riccardo, provincia come di Chieti. Vuote? Fermo, fermo. C'è Trump prima. C'è Trump, amico mio. Non è interessante, non è una parola piena. Sì, ma no, è vuota, priva di interesse radiofonico. Però sentiamo qualche stronzo che no, chiama. No, non c'entra niente allora. tra stronzo e coso. Sentiamo, c'è una differenza. È interessante, c'è una differenza. Beh, è una proposta interessante da prendere in considerazione. Una considerazione. Io sono a favore. Sono appassionato. Perché, peraltro, detto da uno, dal sindaco di Londra, cioè non quindi da una città. Sei a favore, benissimo. Allora, vuoi vietare i cartelli perché alcuni possono vedere in quel modello di donna? Non una città. No, mi incuriosì. Beh, sai perché lo reputo interessante? Perché viene detto. Mi fai sentire Trump, che è più interessante. Non a Teheran, ma a Londra, una città cosmopolita, purtroppo. Una città aperta, purtroppo. Una città. Appunto. Quindi è interessante. Per questo che un sindaco laburista proponga questa cosa. Una cretinata. Trump, amico mio, Trump, però impariamo un po' di geografia. Vabbè che gli americani non sono molto ferrati, però il Belgio è una nazione, un paese, chiamalo come ti pare, non una beautiful city. So Belgium is a beautiful city. Amico mio, Trump, ti prego, non mi fare ricredere su di te. Dai, su, tira un po' di libri, un po' di cose, fatti consigliare meglio. Belgium, beautiful city. No, Belgio non è. A parte che non è beautiful, sì, alcune città sono molto beautiful. Ma insomma, beh, Bruxelles è beautiful. Sì, però insomma, il Belgio non è notoriamente beautiful, no? Beautiful city. City poi, dai, su. Beh. Riccardo, provincia di Chieti, dai. Vai, pronto? Vai, pronto? Ric. Vai. Dai, Cruciani, che bella notizia mi hai dato stasera. Cioè? Bellissima, stasera torno a casa, stappo lo champagne. Quello lì non lo posso che definire perché altrimenti mi denuncia. Vendola. Si è tolto dalle palle da solo. Ma perché ti denuncia? Cosa volevi dire, scusa, di Vendola? Vabbè, cose che qualche magistrato potrebbe. Vabbè, ma ho capito. Ma allora io non ho i soldi per gli avvocati. Quindi, chiami e poi te la fai sotto, non ho capito. Cioè, di quello che devi dire. No, non lo posso dire perché l'amico tuo lì. Tra l'altro, Parenzo, e tu quando è che decidi di fare la stessa cosa? Di andare via dall'Italia, Parenzo, perché dovrebbe andare via dall'Italia? Scusa, ma io veramente sono benissimo in Italia. Perché come Vendola? Ma come vendo la cosa? Io se potessi andrei a Londra, ad esempio, oggi, quello sicuramente. Vai dove ti pare. A Londra, sicuro. Vai dove ti pare. Riccardo, resti, non capisco perché sei contento che Vendola dice che forse. A parte che sta in Canada, cioè la notizia non c'è in realtà, non è che vuole. Anzi, il mese prossimo viene in Italia, Fermo lì, ti riprendiamo tra un quarto d'ora dopo il giornale radio, fermo. Ah, Grucia, certo che sei proprio uno stronzo. Roma Napoli, in auto con un'amica. Io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. Cruciani, vorrei farlo io il tuo mestiere. Fai 10 minuti di trasmissione, 20 minuti tra pubblicità, GR, traffico, cazzi e mazzi. Ci tua. Non ha torto questo ascoltatore, siamo entrati alle 19:20, quasi 19:21, e siamo entrati anche alle 18:37. Bello. Bello. Effettivamente è vero, ci danno un sacco di soldi per trasmettere praticamente un cazzo tra mille altre interruzioni. Ma vero, meglio. Tutto vero. Non segnaliamolo, se se ne accorgono. In realtà non è meglio. Però diciamo che è meglio. Diciamo che ha ragione questo ascoltatore qui. I give on to your skin just Senti, io non voglio sempre tornare su Mandarà, Parenzo, però no, devo... perché è un personaggio irrilevante nell'agone italiano. Totalmente irrilevante. Molti di voi però lo conoscono perché sono smanettari del web, eccetera, eccetera. Tra gli smanettoni del web è anche abbastanza, diciamo, noto come dietrologo, complottista. Tu l'hai definito anche brutto, no? No, io no, brutto non mi permetterei mai di dare, sì, io giudizi sugli uomini. Sì, come no, hai dato del brutto, guardalo in faccia. Ho detto semplicemente, fatevi voi un'idea. Io la mia idea me la sono fatta. È quello che si è fatto praticamente una sega in webcam davanti a una che lo cercava, davanti a una che lo cercava, e poi ha detto che è cascata in una trappola, che non voleva, che voleva fare un'inchiesta. Ma in realtà non è vero, perché poi da noi cosa ha detto? Ha detto un'altra cosa, ha detto in sostanza che era rapato perché era fuori casa in sostanza. Vabbè, che cosa ha detto stavolta? Ha detto che il Bilderberg, tieniti bene perché io so che tu ti incazzi per queste cose. No, il Bilderberg, Bilderberg avrebbe progettato l'assassinio di Falcone e Borsellino. È vero, anche questo è vero, abbiamo le prove. Bilderberg, sì, è vero. Imposimato e altri, quindi non sto dicendo il primo che capita, persone assolutamente autorevoli dicono che addirittura un tempo nelle riunioni del club Bilderberg venivano decise le stragi, Piazza Fontana, la strage di Bologna, eccetera. Se in questo tipo di riunioni si decidono queste cose, magari in una riunione Bilderberg, che possono, visto che siamo a Palermo, possono anche aver deciso come ammazzare Borsellino e Falcone. Capito, eh? Cioè, abbiamo risolto tutto. Cioè, se volete, no, i processi sulla mafia, cioè, non conta niente. I veri mandanti dell'uccisione di Falcone e Borsellino sono al Bilderberg. Poi a un certo punto parla con una signora di Bolzano dicendo io che io quello lì lo preferisco quando chatta con le signorine, almeno fa una cosa concreta, diciamo, piuttosto. Senti, noi siamo schiavi, questa è la sua teoria, no? Secondo me, non uso mezzi termini, noi italiani, ma questo vale per tutto il popolo europeo e praticamente di tutto il mondo, siamo schiavi. È una parola molto dura. A volte, intervistando le persone nel corso del mio tour, mi ricordo in particolare una signora di Bolzano con la quale dialogavo amorevolmente per un 10 minuti, quando ho detto: signora, ma lei si rende conto che siamo schiavi? È scappata, ha detto: basta, non ho tempo, ciao, se n'è andata. Te credo, sì, per forza. Te credo, è evidente. Cioè, non è perché uno è inconsapevole, è semplicemente perché se uno ti avvicina e ti dice: noi siamo schiavi, la gente dice: sì, senti amico mio, io me ne vado perché qui c'è un matto. Chiama il medico. No, ma nemmeno guarda i filmati. Io l'ho detto, ma senza suonare acrimonia, guardate i filmati di questo signore che fa il Pecoglioni Tour, intervista i piccioni. Quello dei piccioni ve l'ho detto, ma anche un gatto ha inseguito, che scappava ovviamente, pure il gatto si rifiutava di farsi intervistare da questo mandalà, come ma si chiama? Kikalà, Kukalà. Qua Kukalà, Satalà, Santalà. Vabbè, Sandro dalla provincia di Bergamo, dai. Sentiamo Sandro, altro provincia. Genio. Ma Sandro, perché devi insultare la gente prima che parli? Prima perché che parli? È preventivo, perché su 9 persone che chiamano, su 10 persone, 9 sono pecoioni, no, per usare il termine del tuo amico. No, non sono amico di nessuno. Io. Che Sandro, sì, vai. Che sì, tocca Sandro. Nella doccia. Sì, buonasera. Dimmi. Possiamo parlare di Vendola? Vai, parla di quello che ti pare, Vendola. Perché, no, ti spiego perché lui si vergogna. Sì, però amico mio, non parlare col viva voce, non parlare con l'auricolare, perché sennò vengo lì e ti do una pizza in bocca, capito? Pronto? Sì, ti do una pizza in bocca se continui a parlare così. È pochissimo. Comunque Vendola, lui fa il vergognoso, per forza. Perché lui, quando era alla regione che faceva il presidente, ha tolto i vitalizi, ma non a lui, quelli che venivano dopo. Sì, quello è vero. Ha riformato i vitalizi solamente per quelli che venivano dopo. Che è in Parlamento. Vabbè, ma che c'entra questo adesso? Con La vita dorata, è chiaro che fa i suoi comodi. Come in Italia lo criticano, non se ne sta comodo. Scusa, però che c'entra questo? No? Che c'entra questo? Anche, oppure non si fa criticare, cioè lui va in TV e si farà, come dire. Vabbè, Sandro, mi senti o no? Cosa c'entra il vitalizio? Io in generale dico che i parlamentari italiani hanno troppi privilegi. Non lo sapete che i parlamentari, per esempio, come si chiama, spagnoli, non prendono come quelli italiani. Prendono la metà. Va bene, abbiamo capito, Sandro, l'abbiamo capito. Riccardo, provincia di Chieti, era quello di prima, Riccardo, allora? Pronto? Sì, Riccardo. Rieccomi. Mi avete richiamato voi, pensavo che fosse... No, sì, eravamo in linea di nuovo, eravamo rimasti così. Non ho capito che cosa volevi... Cioè, sei contento che Vendola sia andato fuori dalle scatole? Sono contento e spero che altre persone che attualmente vivono in Italia seguano l'esempio di Vendola. Parenzo, vabbè, ce lo mettiamo come personaggio caratteristico di colore, ma gente come la Boldrini, come Fausto Bertinotti, che se ne vadano dall'Italia, visto che l'Italia fa schifo, l'Italia non è una democrazia, l'Italia ci sono i diritti calpestati, se ne andassero fuori dalle palle in qualche paese dove i loro diritti sacrosanti vengono... Va bene, Ricca, ciao, Gianfranco Milano, vai. Ciao. Ciao Gianfranco, dimmi. Una provocazione di questo tipo, ma voi non pensate che ci sia un problema di genere, che noi maschi siamo dei coglioni, a parte quelli che telefonano, ma tutte le violenze che stanno capitando le facciamo solo noi maschi, non c'è una donna in mezzo a queste violenze. Bravo, bravo Gianfranco, questo è giusto. Ragazzi, ma state scherzando o state dicendo sul serio? Ha perfettamente ragione, è un dato di cronaca, statistico, ma qual di numeri, è il dato di ha ragione, cronaca? Ma di bravo. Che parli, di che ha parlate? Ha detto una cosa normale, cioè, banale non ho capito anche. Gianfranco, allora? Ma scusami, gli hooligans sono donne? Ma cosa c'entra? Ma il calcio è seguito soprattutto dagli uomini. Perché siamo dei coglioni, perché non sappiamo cosa fare. Ma non dire stronzate, ma quello è un altro discorso. Allora non ho capito, gli hooligans sono uomini, allora poi continua. Quelli che fanno il terrorismo chi sono? Sono donne? Beh, qualche donna c'è stata terrorista, ma, poche, eh? Ma molto poche. Ma questo non è vero. Allora stiamo arrivando alla conclusione che il potere è maschile. Benissimo, grande conclusione, grande originalità. Poi? No, è che siamo dei coglioni, non è che siamo al potere. Che siamo dei coglioni. Siamo dei coglioni. Cioè, la colpa è degli uomini, del genere maschile. Ma il potere è violento e più maschile, questo è vero. Ma, potere, beh, è una bella, banalità. Ma cioè, siamo arrivati a questa grande scoperta che il potere è maschile, dunque le nefandezze. Il potere violento è maschile. La violenza, il potere violento è maschile. Allora secondo la vostra teoria, dando più potere alle poi donne, ci sono anche donne di camorra, ovviamente, come racconta la storia. Questo è certo, però numericamente sono meno. Discorsi senza senso. Assolutamente senza senso. Cioè, come i tuoi, ognuno esprime. Può darsi, sì, tu hai il diritto di dire, ma il fatto che tu dici la maggior parte dei crimini sono commessi dagli uomini è una cosa talmente banale. Crimini più violenti, più efferati. E dunque, no, la conclusione è dunque. Niente, bisogna pensarci. Abbiamo pensato. Poi avanti culturalmente. Culturalmente avanti, che vuol dire? Che vuol dire culturalmente avanti a essere meno rincoglioniti? Che cosa vuol dire concretamente? Concretamente, al di là delle parole. Delle parole, che cosa vuol dire? Ma devi pensare a te stesso, a cosa fai, alle stronzate che dici. Sì, io ci penso. Io non provoco nessuna violenza, amico mio. Sei tu che dici stronzate, io non provoco nessuna violenza. Sei un provocatore naturale. Sì, sono un provocatore naturale. Dimmene una, per esempio. Dimmene una. Vediamo, fai. Ma dimmene una. Tutte le risse che fai con i vegani, tutte le risse che fai con i cacciatori, tutte le risse che fai su quelli che possono sparare appena uno entra in casa. Cioè, sì, tu confondi le idee con le altre cose, capito? Anche Hitler aveva delle idee. Poi sì, mi hai paragonato a Hitler, ma va bene, per carità, ti abbraccio, ti do una carezza, non ho problemi. Come intelligenza mi sembri sì. No, ma amico mio, Hitler era una persona di media intelligenza, non è nemmeno troppo geniale, insomma, non ti preoccupare, per cui non... No, non è quello il problema, ma non mi interessa di misurare l'intelligenza di nessuno. Sto dicendo semplicemente che quando tu dici che il problema è del genere maschile, dici una cosa di una tale ovvietà che il potere è maschio, dunque le peggiori nefandezze non le possono che fare i maschi. Oggi, per esempio, mi segnalano che quelle dei furbetti là del cartellino lì in Campania sono quasi tutte donne. Quasi tutto, perché vabbè, questo non c'entra con la violenza, però questo faceva un discorso sulla violenza, i furbi sono trasversali, uomini, potere, donne, trans, bisessuali, omosessuali, trisessuali, quello se il potere è uomo è normale che sono gli uomini a commettere le violenze, no? Se il potere è in mano agli uomini, non è detto che se il potere fosse in mano alle donne ci sarebbero meno violenze. Siete il peggio del peggio, fate schifo. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta La Zanzara. I got my head checked by a jumbo check. Ammettiamo un po' di audio, un po' di voci sulla politica, Parenzo, altrimenti sembra che parliamo del nulla, invece tutta l'Italia si occupa delle discussioni tra i candidati sindaci. No, ma scusa, è dell'assassino della deputata, hai visto che paese? Che vuoi dire? della deputata Joe Cox. E che vuoi dire? Che vuoi dire? Avanti, fai una considerazione banale sull'assassino della deputata. Considerazione banale Cox. Molto semplice. Editoriale di Parenzo, banale. Sì. Donna colpita, aggredita da chi? Da un uomo, per ricollegarsi a quello che stava dicendo prima. Non c'entra, probabilmente non c'entra una mazza. L'assassino gridava Britain first, Britain first, la Britannia prima, ed è uno di questi che sostiene l'uscita dalla... Lo dici tu che sei un poliziotto inglese, un investigatore? No, mi sei un investigatore? Tutti concordano su non questo. Non è vero, non è così. Tant'è che gli inglesi decidono di bloccare, di dare lo stop alla campagna per il referendum sulla Brexit. Hai dato delle notizie, poi per questo serve il giornale radio, poi? No, che giornale radio? Poi, a quello che hai detto, già c'è il giornale radio. Poi il livello di civiltà di questo paese, che a un certo punto, di fronte a uno shock così forte... Anche in Italia questo, sarebbe interrotta la campagna elettorale. Non lo so. Vabbè, la tua considerazione sull'interruzione della campagna elettorale. Ancora una volta, una donna cosa viene c'entra? Assassinata e colpita per le sue idee. Una donna da un uomo. Bene. Ci riporta diritto a quella violenza di cui parlava l'ascoltatore. Bene, l'ascoltatore poco fa. Bravo. Guarda caso, sei pronto per Radio Popolare. Guarda caso, non c'è mai una donna che uccide in modo così brutale un uomo. Non si è mai vista nella storia. Considerazione finale, dunque, conclusione: siccome non esiste una donna che uccide in maniera brutale un uomo, dunque cambiamo la società, sopprimiamo gli uomini. No, che vogliamo fare? Inasprite le pene nei confronti degli uomini che uccidono le donne. Cioè, non bastano le condanne attuali. No, non bastano. Se un uomo uccide una donna, deve prendere più anni. Bene. Una cosa esiste quando ha un nome, quindi un reato esiste, quando altrimenti non esiste, no? Cioè i nomi alle cose danno la specifica della cosa di cui si sta parlando. Mamma i nomi delle cose. Stronzo qualifica quel che uno è, no? Se non ci fosse la parola stronzo, uno non dice cosa manca. Come ti posso definire? Uno stronzo. Vabbè. Vedi che la parola ti qualifica. È finita, no? è finito il minutaggio di politicamente cretino. Andiamo a Malagò, che dice politicamente, sì. Politicamente cretino. Malagò, il presidente del CONI, dice che non ha nessun senso, giustamente dice che non ha nessun senso il referendum sulle Olimpiadi. E se uno è contro le Olimpiadi lo deve dire chiaramente, così ci ritiriamo. Malagò ha ragione. Secondo le persone, ha un senso fare un referendum un mese prima che quelli ci devono giudicare? Perfettamente inutile, ci dobbiamo ritirare, perché è chiaro che noi abbiamo una spada di Damocle che perderemo qualsiasi credibilità. Ha ragione Malagò, ragazzi, non potete dire stronzate su questa roba qua. La Raggi ancora, farò io il referendum sulle Olimpiadi. Non ci può essere il referendum sulle Olimpiadi, altrimenti non te le fanno fare. Non ci arrivi alla conta finale sulle Olimpiadi. E lo dico io che sono contrario, sono della stessa idea che dovrebbe avere in teoria la Raggi. La Raggi dovrebbe dire, se vinco io, a Roma non ci saranno le Olimpiadi. Perché non lo dicono chiaramente? Se io vinco domenica. All'inizio diceva così. All'inizio diceva così. Poi ho cambiato idea. Poi a un certo punto, con questa idea della democrazia diretta, della stupidaggine assoluta. Guardi, se dovessi diventare sindaco, sarò io stessa a indire un referendum consultivo, come è consentito dal regolamento. Non è consentito dal regolamento. Quale regolamento di cosa? Uno può fare referendum su qualunque cosa. Se tu domani, se vinci il lunedì, dici farò un referendum, la candidatura italiana è morta, è finita. Chiaro? Io sono anche contento di questo, ma mi piacerebbe una che si candida a sindaco e dice: se io lunedì vinco, chiudo con la Claire il comitato per le Olimpiadi, quello di Montezemolo, lo chiudo con la Claire, perché le Olimpiadi non le voglio a Roma. No, io le voglio, ma insomma. Vabbè, ma pure è legittimo che un sindaco è legittimo, abbia la sua idea, no? Sì, per carità. Anzi. When I was young. Oh. Giacchetti, attaccato dalla Raggi perché la Raggi dice che non ha mai lavorato in vita sua, risponde in questo modo. Ho visto che la candidata del Movimento 5 Stelle, per entrare proprio profondamente nei problemi di Roma, ha rilasciato una dichiarazione dicendo che il sottoscritto non ha mai lavorato. Io vorrei far sapere alla signora Raggi che io faccio politica da quando avevo 15 anni, sono entrato in Parlamento quando ne avevo 40 e per 25 anni ho fatto politica in mezzo alla strada, ho raccolto le firme per il referendum, andavo a volantinare, andavo a fare le manifestazioni e non mi pagava nessuno, mi pagavo con le sterline che mi regalavano i miei nonni, così ho campato per 25 anni. Si poteva rispondere meglio a questa cosa, perché se uno risponde io ho lavorato facendo volantinaggio e non so per quanti anni, forse si può tranquillamente rispondere: ho fatto il militante. Fare politica è un lavoro. Militante politico per tanti anni, cioè, però non è che la Raggi abbia tutta questa esperienza di politica, ha fatto qualche anno in uno studio di avvocati che nemmeno vuole nominare. Diciamo, questa è la realtà, dai. When I was young. Allora ragazzi, andiamo a Giuseppe Reggio Emilia, vai. Sì, due cose. La prima è, mi risulta che qualche tempo fa una infermiera ha giustiziato qualche decina di pazienti mentre faceva le sue funzioni e molti di questi erano maschi e non si è parlato mai di maschicidio. Ah sì, ma dai, ma sono puttanate, dai, sono sì, cose di politicamente cosa corrette, parenziane e dintorni, dai, no, puttanate, dai. Non è così, non puttanate, è così. Puttanate, dai, infatti, puttanate. Si dovrebbe parlare di pazienti. Ci sono omicidi, punto, condannati dal codice penale in tutti i paesi, punto e basta. Se esiste una specifica dell'omicidio con dolo o colpa, per non entrare nel merito. Veramente, veramente, io credo che tu non possa pensare a certe cose. Io penso, come, se no non lo dico. Va benissimo, lo dici. Non lo direi, se no. Giuseppe, se esiste una differenza tra il dolo e la colpa, esisterà anche una differenza tra i delitti compiuti con una certa brutalità. Dal genere, dal genere maschile, come esiste l'aggravante dell'odio razziale. La legge entra nel merito. È diverso, cose, il genere infatti. Femminile e maschile è diverso. Ma dall'odio è l'odio razziale? Razziale? Quella è una motivazione, è diverso. Te lo ma devo insegnare. Ma è giusto o no l'odio razziale? Ma si può, in alcuni casi è giusto la gravante. In alcuni, è un principio Giuseppe, che viene sancito. L'odio razziale è ma un principio. Ma fai parlare Giuseppe, per favore. Abbiamo capito come la pensi. Dai, Giuseppe, vai. Io sono d'accordo con te per il discorso degli omicidi. Però, ecco, volevo semplicemente puntualizzare una cosa. Sto con il sindaco di Londra. Perché il 90% delle donne sono dismorfofobiche, cioè praticamente non si piacciono. E dunque che cosa fanno? Vengono, uno mette un cartello pubblicitario e le donne possono sentirsi male perché vedono altre donne magre. Ma ragazzi, no, ma siamo alla follia. No, semplicemente non lo deve stabilire un pubblicitario se io sono perfetto per andare ma al mare. Cosa c'entra? No, ma quella è una pubblicità. La pubblicità tende a rappresentare, a parte dai, che non è vero che ci sono delle eccezioni, perché ormai nelle pubblicità ci vanno anche le donne più grasse, le donne ciccione, eccetera. Eccetera, meno male, e va bene, ma quella è una scelta dei pubblicitari. Ma cosa c'entra il sindaco di Londra che va a questionare un cartello pubblicitario in cui ci sta una modella che dice avete un corpo perfetto per il mare, sì o no? No, ma si deve... sono sì, cazzi della pubblicità. Se non si violano leggi, però... se non si violano leggi, i pubblicitari possono fare come vogliono. Però ma di che ti preoccupi? Della reazione delle donne? Delle ma la fragilità della donna? Ma ragazzi, ma siete veramente alla follia, eh? Cioè, veramente mi fate impazzire. Ma siete diventati come la Boldrini? Oh, ma che siete matti, siete? Cioè, siete impazziti, come la Boldrini siete diventati. Cioè, che pensate che un manifesto pubblicitario possa condizionare una donna che lo guarda? Ma siete impazziti, siete. Dai, Giuseppe, su. Sì, serio. Pensa che ci siano delle teenager che non vogliono più mangiare perché devono andare in spiaggia. Certo, ma che c'entra questo? Ma cosa c'entra questo? Ma è un problema grosso. E che, lì. E che fanno? Sono condizionate da un cartellone pubblicitario? Ma ragazzi, ma dai, su. Io lo sono da tutto, sono, cioè da una civiltà dell'immagine che è vabbè, c'è la civiltà dell'immagine, abbiamo capito. C'è internet, che facciamo? Chiudiamo tutto, chiudiamo internet, no, chiudiamo la pubblicità. Però ragazzi, le pubblicità tendono a rappresentare il bello. È un corpo magro è oggettivamente, esteticamente, pubblicitariamente più bello, non in tutti i casi, di un corpo più grasso. Questo sicuro. Non c'è bisogno di rimarcarlo. Ma quale rimarcarlo? C'è la pubblicità, che rimarcarlo da chi? Sempre dai, c'è una pubblicità, ci sono addirittura degli stilisti che pretendono che non mangino. Ma quello è un altro discorso. Ma quella è un'altra roba, uno fa quello che vuole nella vita, per fortuna, eh. Cioè, c'è libero arbitrio da parte di una ragazzina di 20-25 anni di mangiare, di non mangiare, eccetera. Le persone che vanno a comprare i vestiti hanno dei difetti fisici, cioè bisognerebbe cercare di lavorare in questo. Perché io devo rimarcare invece una questione perché che devo assurdo. Rimarcare? Ma chi lo decide se devi rimarcare o no? Il sindaco di Londra? Il sindaco di Londra deve andare a fare il culo. Ma perché deve decidere un pubblicitario della mia vita, scusa? Ma chi l'ha detto che decide sulla sua vita? Quello decide sul suo prodotto, su come vendere il suo prodotto. Il sindaco di Londra ha detto una cazzata e ha fatto una cazzata. Giuseppe da Bologna, dai. Ciao. Che può essere appoggiata solo da Parenzo, perché adora il sindaco di Londra. Giuseppe. Sì, no, mi piace questa idea della democrazia inglese. Sì. No, io senza offesa mi sembrava di volerti dire che mi sa che l'hai sparata grossa su... Come si chiama il tuo amico Sgarbi? È una gran stronzata. Cioè, ecco, ho detto che ognuno ha il diritto di resistere come vuole. Mica ho detto anche che Rina, no, ma è una stronzata proprio, totale. Cioè, ha provato a scappare. Stai fomentando quasi il complottismo. Non puoi essere così relativo senza vedere il fatto, no? Ti hai parlato di oggettività ora. Stai rendendo tutto relativo. Ragazzi, lasciamo perdere i termini. Persona... Io ho detto semplicemente, Sgarbi è stato condannato, secondo quello che dice Di Pietro, a 7-8 occasioni a risarcire tra i 2 e 300 mila euro. hai il diritto attraverso, hai il diritto, non ho detto che fa bene, ho detto hai il diritto attraverso artifici vari, intestazioni di beni alla madre. Diritto, è un escamotage, è un escamotage, certo, è un escamotage. È un diritto sancito dalla legge. Non è un diritto, è un dovere pagare il debito, cioè tu stai facendo di tutto per eludere il tuo dovere. Allora, questa è l'oggettività, questo è il fatto. Lui fa di tutto, è come uno condannato che scappa all'estero, dice il suo diritto scappare all'estero, ma insomma, non tanto il suo diritto, poi sarà il dovere della giustizia prenderlo. Diritto non nel senso che deve essere sancito da qualcuno, cioè lui può farlo, cioè lo può certo fare. Che può farlo, è evidente, lo fa, è ovvio che ma anche il latitante lo può fare, il latitante, però è contro compito la legge. Dello Stato, è compito dello Stato trovare il modo di fregarlo, cioè trovare il modo fregarlo, di far applicare la legge, non di far applicare la legge, sì, di fotterlo nel senso di trovare il modo di come latitante, il latitante non è che ha diritto a essere latitante. Beh, come no, ma non si è comporta da latitante. Fa il latitante, poi lo Stato, ma Matacena, il caso Matacena di quel simpatico signore che sta a Dubai, ad esempio. E lì a Dubai, ma non è che ha il diritto a fare il latitante. Beh, questo no. Si ma arroga... non è un diritto, il diritto è un'altra cosa. Cioè, uno che fa il ladro. Cioè, punto. Sì, si comporta da ladro. Si comporta da ladro. Esatto, sì, appunto, si comporta da... Dunque, che cosa fa uno che è stato non condannato? Ha diritto. Cioè, se no sembra che c'è un diritto di legge a essere latitante. Non avete capito? No. Mi arrendo. Che mondo sarebbe senza la zanzara? La zanzara. Oh ragazzi, sono al casello di Carisio e sto ridendo. Giustamente uno mi scrive: togliete i cartelloni della Porsche perché non potendomi permettere una macchina sono traumatizzato da quella supercar ostentata. Dai ragazzi, ma è una provocazione di siete intelligente, personaggi ridicoli quando pensate che una pubblicità con una donna in bikini magra possa traumatizzare una donna che non riesce ad arrivare a quel livello di magrezza di corpo. Siete ridicoli. E ho timore che questa boldrinizzazione della società italiana e degli ascoltatori, in parte anche di Parenzo, sia piuttosto diffusa. Perché no, ma qui non è Boldrini, non c'entra niente la Boldrini. Come no, uguale. C'entra un personaggio straordinario che è il sindaco di Londra. Anche i personaggi, come dici tu, straordinari, che fino adesso non ha dato prova di straordinarietà. Ma intanto è stato votato dai questo non c'entra niente, grazie sindaco, dai londinesi, ci mancherebbe. Che sono pure all'avanguardia, una capitale mondiale, dove c'è la City, dove c'è tanto denaro. Primo atto. Quindi un islamico che viene eletto sindaco in una città cosmopolita come questa. A me interessa quello che uno dice e fa. Altro che a me interessa quello che uno dice e fa. Bitonci lì, Bobonci, come si chiama lì. A me interessa quello che uno dice e fa, non gli slogan. Appunto, ma gli slogan. Fa delle cose anche, come dire, di battaglie di culturali, va benissimo. Lo fa in una grande capitale mondiale come Londra, non in un buco di culo di città del nord lì con i Bergam. Ti posso dire che sei un coglione, sei veramente un coglione. Dai, cioè ragazzi, tu giudichi le persone attraverso gli slogan. Anche. No, invece gli slogan, in questo caso quello che dicono e che fanno, no? Ma gli fa slogan. Una cazzata, vuole evitare la pubblicità, attraverso la prima cosa che ha fatto, una cazzata. No, non è la prima cosa che ha fatto perché sta facendo anche le Ramadan nemmeno. E ha reso pubblico. Ramadan non lo fa perché è islamico. Ramadan lo fa perché è islamico. Ha reso pubblico il fatto che il sindaco di una capitale mondiale come Londra non votato, sono dai pakistani, d'accordo? Oliviero, da un segnale di multiculturalismo straordinario. Oliviero, come stai? Litigate sempre voi. No ma ragazzi, ma siamo veramente alla follia. Ma Oliviero mi dà ragione sicuramente. Siamo veramente alla follia. No, cioè, no. Cosa no? David, no, per una volta non ti do ragione. Ma dai, non ti piace il sindaco di Londra? Ma cosa vuol dire? Io lo giudico dai fatti, non dal fatto che è pakistano e islamico. Ma che cazzo me ne frega che è islamico e pakistano? Anche. Ma anche cosa? Che me ne frega? Sei razzista allora? Sei razzista? Al contrario, sì. Il pakistano ha torto. Non è perché pakistano o musulmano deve aver ragione, però Cruciani, c'è un problema: gli stupidi vedono il bello solamente nelle cose belle. Sì. È chiaro che queste qua sono belle donne e prima di tutto fa incazzare quelle brutte, che pensano di essere brutte, no? Sì, sì. Perché non è vero che le donne belle sono tutte occhie, lo dicono le donne brutte che dicono che le donne belle sono tutte occhie, ci sono le donne bellissime che non sono assolutamente occhie. Allora è chiaro, sì, che sono delle donne belle. Sì. E tu vuoi vietare di vedere perché? Perché lui dice... No, ma ho capito, lui dice una cazzata. Ma lui dice una cazzata. Meno male. Allora, è come dire, no, i corpi nella Cappella Sistina di Michelangelo, gli uomini sono troppo belli e muscolosi e bisogna che li cancellino, devono essere delle seghe come noi. Sì, no, ma no, poi ma, soprattutto... No, ma scusate, ma che crea aspettative, è realistiche chiaro, sul corpo delle donne. Ancora più inarrivabile. Vietandolo diventa ancora più inarrivabile, diventa come l'alcol durante il proibizionismo. No, ma ragazzi, no, ma è una tale cazzata, ma cosa fa, poveretto? Ma non sa niente, non sa niente infatti di queste cose, non sa niente, no, Davide, si dimostra un integralista, ragiona. Si dimostra un integralista, cioè questo c'è poco, esatto, da fare. No, io dico che mi ha colpito la scelta, mi ha colpito la scelta fatta non a Teheran, ma di un sindaco a prendere eletto e apprezzato. Anzi, qui la città è grande, ci sono i pezzi di cazzo, ma cosa vuol dire? Di una ma battaglia, dai, culturale che ma questo dov'è si la fare, battaglia che culturale anche coraggiosa se vuoi, perché tanto perché non è che cambierà le sorti, dico, del mondo, le donne belle no allora ci sono le donne belle che c'è qualcuno che piace quella bellezza lì estrema, ti ho detto, gli stupidi vedono il bello solamente in quella bellezza, e poi è chiaro, ci sono delle donne belle per altre ragioni, bisogna capire cos'è la bellezza, c'è anche la bellezza della tragedia, ragazzi, ma conoscete l'arte o no? No, ma assolutamente, ma tu sul punto hai perfettamente ragione. Però mi colpisce quello che lui dice, quando dice voglio inviare un messaggio chiaro all'industria della pubblicità, cioè ma lui fa il politico. Al contrario, esatto, lui, esattamente. Lui dice io faccio il politico, faccio delle scelte che poi possono essere impopolari o popolari a seconda lo decideranno, no, i londinesi. È popolare, però dice, per la pubblicità ha fatto diventare importante. Questo può essere, questo le può essere, certo. Gli avranno fatto un regalo, non so, io glielo faranno. Sì, ma dai, su questo non credo, però. Ma state lì a perdere tempo con la stupidaggine. Comunque, la censura, qualsiasi sia, è sempre sbagliata. Sempre, sempre, sempre. Sì, ma poi soprattutto con uno spot che non è che faccia vedere, cioè, no, una tetta scoperta al limite. E poi che... guardate, queste mezze racchie che pigliano per questo sapone dove? Anche quelle sono scelte, proprio anche cattivo. Andiamo a pigliare una cicciona, andiamo a pigliare una con le gambe storte. Andiamo... Ma dico, ma quello è razzismo. Quello era, sì. Ma quali sarebbero ste racchie? La ricerca, ma sì, fanno le pubblicità adesso. Poi non parlate con me, che io proprio le modelle non le uso mai. Sempre cioè, fanno la pubblicità scegliendo le racchie. Ha detto il sapone, esatto, dove? Che fa? Racchiotte, sapone dove? Sì. Scegliendo delle racchiotte un po' grasse, un po' con le mutande arrotolate. Sì. Così almeno, ma non è vero. Siamo tutti alla ricerca della bellezza. La ricerca della bellezza è quello che ci fa continuare a vivere in questo mondo. E del perché, cazzo. Scusami, perché allora scelgono queste qua un po' racchie, un po' grasse? Così per fare un po' notizia? Ma per fare notizia, ma è logico, è ancora più cattivo. Di guarda, noi siamo racchie, però facciamo. No, però scusa, c'è una questione di fondo che è questa qui. Quando Oliviero ha fatto quella bellissima pubblicità delle United Colors of Benetton, questo con... c'entra, scusa. C'entra perché stiamo parlando di pubblicità e di messaggi. Ha provato a sconfiggere il razzismo, cioè le sue pubblicità mandavano un messaggio, vabbè, no? Allora alcune possono mandarlo, altre no. Vabbè, sai, infatti di questo stiamo parlando, ma ora, non della pubblicità di un cesso. Estrema, facendo vedere, appunto, cioè le tue pubblicità avevano un contenuto anche politico, ma perché di questo caso, stiamo parlando. La non c'entra niente con la Benetton. No, dico le United quando facevi l'arabo abbracciato. Ma cosa c'entra questo? Non è che tutte le pubblicità, attento. Non è che tutte le pubblicità devono dare un messaggio. Del sindaco di Londra. Qui stiamo parlando di una cosa nel merito, no? Cioè, no, state dubbio, criticando. È indubbio, sì. È indubbio che la comunicazione pubblicitaria ha una grande influenza, soprattutto sui giovani. Oh. È indubbio che le ragazze guardano e dicono: cazzo, a 13 anni guardano tessuti. Meno male. Se no? Dico, oh. Io non sarò mai così, sono sfigata. Meno allora male. Diventano anoressiche, diventano polemiche. Meno però, male. Allo stesso tempo, queste perché sono stupide? Ragazzi, perché sono stupidi? Facciamo così: cancellate il mondo. Guarda, te lo cancellate, anche cancellate il mondo. Ma non c'è niente da cancellare. Chiudete il mondo. Chiudete la Serranda. Chiudete il mondo. Ma non chiudete niente. Te lo sta spiegando, ci però. Com'è? Le belle donne sui manifesti, non ci vogliono più le stupide che copiano, che pensano di non essere ma belle. Purtroppo, se non sono come quelle lì. Purtroppo la stupidità non si può eliminare, caro amico mio. Viva Goldrake che ammazza i vegani. La Zanzara. Allora, forse vi è sfuggito, ma ed era sfuggito forse anche a me, che in questi giorni sono un po' rincoglionito, ma c'è nella frase prima di Giachetti, a un certo punto Giachetti dice mi sono mantenuto fino a 40 anni con le sterline dei nonni, no? Forse intendeva con i risparmi dei nonni in realtà. Con i risparmi sterline dei nonni, forse lo hanno mantenuto per fare politica, per campare, eccetera. Qualcuno mi ha detto no, ma con le sterline dei nonni non si può dire una cosa di questo tipo, è stato mantenuto dalla politica. Guardate, a me di queste cose non me ne frega nulla, assolutamente nulla. Io conosco da tanto tempo Roberto Giachetti, non ho alcuna simpatia per il Partito Democratico a Roma, né in generale per il Partito Democratico come per altri partiti, ma fossi a Roma lo voterei, semplicemente per il fatto che lo conosco, solo per questo. Probabilmente conoscessi di più la Raggi, magari voterei per la Raggi conoscendola, ma conosco di più una persona e normalmente nelle città si va a votare solo ed esclusivamente per questo motivo, se conosci una persona e la reputi in grado. È difficile però che uno decida in grado, e la reputi in grado questa persona di governare una città. Siccome noi perché facciamo sto mestiere che conosciamo queste persone, ma il cittadino comune non è che conosce Giacchetti o Raggi di persona. Sì, le sterline d'oro, mi dicono, un investimento che fanno i nonni, le sterline d'oro. Comunque io a Roma, possiamo fare un po' di coming out sulle elezioni. Ottimo. Oggi è giovedì. Allora, io fossi a Roma, non sono residente per fortuna a Roma, io sì, da non sono, so quanti anni, Giacchetti, certo. Da 16 anni, voterei per Giacchetti, ma semplicemente perché lo conosco, a me non me ne frega niente Giacchetti, certo. Di fottere Renzi, inculare Renzi, far perdere Renzi, non me ne frega nulla di queste stronzate, se no come i politici, D'Alema e altri ancora. Io voto per le persone, a Roma voterei per Giacchetti, a Milano voterei per Parisi, vedi? A Milano voterei per Parisi. Oliviero, tu chi voteresti? No, quindi voterai ragione, Parisi. Giacchetti, se vuoi fare un regalo a Roma, Adè, tu voteresti Giacchetti pure tu? Tu che hai simpatie grilline, no, pure tu? No. Voterei l'uomo proprio, lui. E a Milano? Ma tu dove voti poi? So. Dove voti? Io in Toscana? Non voto né a Milano né... Io voto in Toscana e adesso non si vota. Sai che sono stato assolto, i veneti mi vogliono. Adesso aspetta, ci arrivavo. No, ma tu allora voterai Parisi veramente? Perché stai a Milano? No, non vado a Milano. No, Cruciani, dico. Io voterò Parisi, sì. Ah, ecco, Parisi. No. Sì, assolutamente voterò Parisi al secondo turno, ma ho votato al primo piace turno Parisi. Ma no, ma non è che mi piace Parisi, tra i due. Molto simili, tra i due c'è una sono delle piccole differenze, voto Parisi così. No, per... non voterei Parisi perché poi c'è di là c'è anche il mio amico Salvini. C'è lo so, questa è l'unica roba infatti anch'io, guarda, chi sono se ne frega. Se no voterei anch'io per Parisi. Come te ne frega, scusa. No, però quell'alleanza anch'io. Adesso Salvini, il problema è Salvini a Milano. Il problema è Salvini. Beh, sai, insomma. No, non è un problema, ma gli amici con cui si accompagna, sai, Parisi è brevissima persona, però si accompagna con la Lega e quindi per me invece gli altri comunisti vanno bene, invece quelli che sono Sala. Perché non chi ci stanno i comunisti con Sala? Che comunisti sono? I comunisti ci stanno, i comunisti, sono quelli i comunisti? Che siano i comunisti. A Milano non vedo comunisti. Ragazzi, ci sono partiti, ci sono partiti della sinistra, dell'estrema sinistra, ma anche dell'estrema sinistra. Ma dove sono comunisti? Credo nella coalizione di Sala ci saranno, no? Cioè, comunisti. Ragazzi, i coglioni ci sono, non sto dicendo coglione a nessuno, i coglioni ci sono da una parte e dall'altra. No, ma i coglioni, ho detto semplicemente che non voterei Parisi. Tu hai simpatia per altri coglioni, per alcuni coglioni, invece io ho simpatia per altri. Devi scegliere fra i coglioni di sinistra e i coglioni di destra. Ragazzi, non diciamo stronzate. Io voto e non mi interessa della compagnia di giro. Voto per l'uomo che fa il sindaco. Però, l'uomo che fa il sindaco, punto e basta. Cioè, ho una leggera preferenza per Parisi e voto Parisi. A Roma preferirei Giacchetti. Punto e basta. Bene, ho capito. Comunque, Toscani è stato assolto. Però dicono, caro Toscani, che in realtà c'è un processo civile. L'avvocato destro che sostiene alcuni padovani che ti hanno portato in tribunale. L'avvocato destro? Sì, l'avvocato destro. Conosco benissimo l'avvocato destro. È quello che ha fatto il casino contro Toscani. Non sapevo che sia l'avvocato destro. Dice a Toscani una battaglia, non la guerra. Questo è il punto. C'è il processo civile, te vogliono togliere i soldi. Pare pure che... Sì, assolutamente. Sì, ma dopo una sentenza così sarà molto dura, sai. Vabbè, comunque... Se ciascun Veneto... Ascolta. Se ciascun Veneto chiedesse in sede civile lo stesso risarcimento come ipotetica riparazione dell'offesa, il signor Toscani dovrebbe sborsare 5 milioni di euro. Una cifra non modica. Già assurdo, capisci? Pretende per aver etichettato i Veneti come eccessivamente amanti dell'alcol. E allora, sono stato assolto dalla Cassazione. Adesso sono... con la Cassazione, dico, è incredibile che sono andati fino lì per farsi dire che è assurdo, che nessuno, ma l'intenzione, ma i ragazzi hanno proprio tempo da perdere. Sì, hanno fatto perdere tempo ai tribunali italiani, devo dire la tutto, verità. Ma logico, tutta gente che ha tempo da perdere, anzi veramente forse un po' ubriaca, e questi qua dovrebbero ringraziarmi, che finalmente li ho sdoganati, gli ho fatto fare il coming out. Ah, tu dici, ha fatto fare il camminato, cioè quelli che t'hanno querelato sono ubriachi loro, dici tu. No, sì, ma ha fatto perdere tempo a tutti, soldi a tutti, ma sono mai proprio da ubriachi. Cioè hai scoperto, tu dici, hai portato in la vera essenza dei Veneti. Sai che una volta Zaia mi ha detto, ti devo ringraziare quella storia lì, ma ho vinto le elezioni perché ho difeso la storia dei... i Veneti ubriachi mi hanno votato. Subito l'anno scorso, quando è successo questa storia. Vabbè. No, ma è incredibile, hanno tempo da perdere questi qui, ma adesso normalmente i veneti invece c'è gente che lavora, non perde tempo o ridono di una roba così. Sì, tu dici non vanno avanti con le scartoffie in tribunale, ma, eccetera, eccetera. Senti, ma è vero l'avvocato adesso che dice che vuole che i veneti in teoria potrebbero farti sborsare 5 sì, milioni di euro? Ma ci sono tanti veneti che dicono che è un matto, che non è. Allora, non sento, senti, Oliviero, sono avvicinati un posto cazzo di telefono. Vuoi i soldi da me? Perché io? Cosa? Perché ti ho detto che sei ubriacone veneto. No, anzi, io no, ubriacone non me ne frega nulla proprio. Appunto, non mi interessa minimamente proprio. Anzi, a ridere, intelligente, ma roba da me. Senti un attimo, ma potresti portare in tribunale tu il Veneto invece? Adesso punto qui, sì. Pensa se i siciliani dovessero fare una casa a tutti, diciamo, siciliani mafiosi. O noi italiani diciamo, certo, ci dicono noi italiani non siamo affidabili, facciamo una causa al mondo intero. Sì, noi italiani, oppure no, facciamo una causa quando ci dicono italiani mandolino, pizza, mandolino, mafia, eccetera. Allora, ma che discorsi sono? Senti un attimo, ma è vero il fatto che Sgarbi non paga quando Di Pietro oggi ha detto che ci sono 200-300 mila euro in ballo? Con Sgarbi? Cioè sì, ci sono delle condanne. Non paga le condanne. Le condanne in sede civile. Va bene, va bene. Perché dici? Ma perché tante volte ce l'hanno con lui come principio, dai, mamma mia, dice anche delle cose giuste e fanno incantare tanta gente. Voglio ringraziare che ci siano gli Sgarbi in giro, anche se fanno girare i coglioni, ma è vero. Voglio ringraziare gli Sgarbi. Senti Oliviero, cioè... guarda che io sono il primo a combattere con lui, conoscete le storie. Però dico grazie Sgarbi. Ho capito, però se uno viene condannato deve pagare o no? Cioè, amico mio, se no è un casino. Se non paghi... se non paghi, pagherà, se non salta tutto. Paga. Ma tu sei favorevole o no alle Olimpiadi a Roma? Ma sono contrario a qualsiasi gara agonistica al giorno d'oggi perché è tutto doping. Vabbè, quello che c'entra. C'entra ragione, però, che c'entra? Per eccellenza, professionisti, con i soldi che sono. Oliviero, se non ti avvicini al telefono, non si sente la mano. Con i soldi implicati nello sport, sponsor. Se tu non vinci è un disastro, e vinci solamente se sei dopato. Vabbè, ma al di là del doping, sei favorevole alle Olimpiadi a Roma o no? Oppure no, è un disastro? Assolutamente no, né le stadi né le Olimpiadi, tutta una parte. Cioè non siamo in grado di organizzare un cazzo, dici? Ma no, ma abbiamo altri problemi da no, ho capito, ma che c'entra altri problemi? Però questa è una cosa che ci porterà soldi, ma prestigio, atleti, gente. Allora, Davide, sei antico, sei vecchio. Sono eventi che ci sono costruiti vecchie, senza dai, rubare. Ma le Olimpiadi vecchie, sì, sicuramente sono vecchie perché ma appartengono ai greci. Facessero le cose sul serio, non c'è bisogno ogni volta di un evento per fare le strade, dai, su, e poi le fanno anche, pure male. Anche, dai. Anche il tiro con l'arco dopato, figurati, non è possibile. Va bene, tu dici un'altra cosa. Ciao, però, Oliviero, ciao. No, ma dico quello che è, insomma, dai, le Olimpiadi di. Senti, cosa? Si è scoperto un caso di un nuovo prete pedofilo che si faceva un ragazzino a Brindisi. Non c'è niente di nuovo. Ciao. Niente di nuovo, Ciao. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Sandro Milano, vai! Sì, buonasera! Vai, dimmi! Allora, aspetta, io volevo dire una cosa. Sì. Praticamente dire che la massoneria finanziaria non ha in mano milioni di persone vuol dire offendere l'intelligenza di tantissime persone. Poi volevo dire un'altra cosa, è il motivo per cui volevo intervenire. Ieri sera parlavate di nazismo. Parlavamo del Mein Kampf, della vendita del Mein Kampf, sì, no? Di nazismo. Sì, vabbè, parliamo di questo. Praticamente volevo dire che il più grande nemico degli ebrei sono stati gli ebrei sionisti e massoni, che hanno riempito fino alla morte di armi e di soldi. Hitler, sapevano benissimo. Non ho capito questa questo cosa. Questo è matto. La storia, secondo. Come si chiama? Non ho capito, qui? Sandro, che cosa è successo? Chi è che ha sostenuto Hitler? I banchieri ebrei? Sì, Rothschild, i Rockefeller. Le aziende producevano armi belliche durante la guerra. Al di là di queste cose qui, ma che cosa c'entra? Scusa, non ho capito. volevo fare un intervento. No, no, ma ho capito cosa c'entra. La storia secondo e questo dunque, qui. E dunque, non lascio perdere le cose storiche. E dunque, eccetera. Che la storia è tutto l'incontrario di quello che vogliono far credere gli ebrei. Cioè, praticamente, aspetta. Degli ebrei. Ecco la cazzata, sono immaginavo. Stati, sono stati gli ebrei, ma noi gli ebrei, quelli poverini che sono stati messi nei campi nei forni. Ah, tu dici che gli ebrei, alcuni ebrei hanno collaborato con Hitler contro gli ebrei. No, alcuni, i massoni. I massoni sionisti ebrei. Mamma mia. Sono stati loro i criminali, basta leggere un po' di storia. Sì, ma scusi, ma a noi che cazzo ce ne frega, scusi. Al di là di... A me non me ne frega un cazzo, neanche a me, volevo intervenire. Volevo intervenire e dire questa stupidaggine. No, ma al di là che siano stupidaggini o no, ma non mi pare... Ma bisogna dire che è una stupidaggine, però, se no... Sono cose complesse, ma non mi interessa. Ma complesse, è una sciocchezza. Sì, anche secondo me è una sciocchezza. Ma dice, guarda, non è proprio così, però... Allora, non ho capito che qual è il significato di questo intervento, scusa. Allora, Sandra. Io voglio dire che nei libri di scuola dovrebbero insegnare dovrebbero scrivere che i banchieri ebrei hanno sostenuto Hitler per uccidere gli ebrei poveri. Dal trattato questo. Di Versailles. Vatti a ricoverare, va. Simona da Milano, vai. Meno male. Vatti a ricoverare, vai. Simona da Milano. Pronto, ciao. Ciao, dimmi, cara. Volevo darti solamente un dato. Dammi un dato, sì. Ti do un dato. Allora, in Gran Bretagna l'anno lezione alle bambine è scesa all'età di 8 anni. Hanno bimbe di 8, anche 7 anni, ricoverate negli ospedali perché stupide, poca educazione, poco sostegno delle famiglie, quello che non lo so. Mm. Però modelli di femminilità estremamente magri stanno abbassando sempre di più l'età delle bambine anoressiche. 7-8 anni, questo dunque, è incontrovertibile. Dunque, io non do completamente torto al sindaco di Londra. Che non c'entra niente con l'anoressia però, non c'entra nulla. No, eh? C'entra. È beh, anche sì, lui lo dice. Va bene ragazzi, se no, per caro, combattere, se per combattere, tu sei ex anoressica, benissimo. Molto carina, sì. Alta 1,71 m, ti ispiravi, 54 kg. Hai visto le pubblicità? Certo caro, guardando che Kate Moss, bene. Però un po' le somiglio. È come dire, è come dire Simona, siccome vedevo le persone fumare ho iniziato a fumare. Ma certo, sì. Ma è così. L'emulazione un po' esiste. E dunque? Infatti, non puoi benissimo. Condannare la sua infatti testa. Alle volte c'è stato periodo che proibivano il fumo, gli spot per le sigarette. Dunque Simona, la conclusione tua è del neo integralista Parenzo, sarebbe questa. No, ma io ragiono sulle cose, poi posso essere anche contrario o favorevole, non è questo. No, ma lascia perdere i dati. Allora, quale dato? Fermi tutti con i dati che non c'entrano niente. La pubblicità la vede sia la donna adulta capace dunque, di scendere di secondo, volere, ma la vede anche sì. La ragazzina. Benissimo. Allora, secondo il neo, secondo questi... La vede sua figlia. Ho capito perfettamente. Secondo i neo fondamentalisti, Simona da Milano e Parenzo, è meglio togliere le pubblicità perché le ragazze potrebbero diventare anoressiche. Ma no, lui benissimo, ha detto vecchia polemica, no, io sto a degli che anni, dice il sindaco di Londra. Il sindaco di Londra ha detto una cazzata. Voglio punto, inviare e un messaggio chiaro all'industria della pubblicità. Cioè, sì. Lui dice: così come la pubblicità promuove un modello, io faccio politica e ne promuovo va un bene, altro. Bravi. Fategli un applauso, così è contento. Vai, mettetegli un applauso. No, così ma è una cosa normale. Applauditelo, dai. Bravi! Cazzata del giorno, vai. Pubblicità. Se l'ha incoronata lui come la cazzata del giorno, benissimo, poco male. Cruciani, ma chi cazzo è il tuo parrucchiere? La Zanzara. Il karma quotidiano prima o poi ritornerà a colpire. Karma. Eleonora Ferrara, vai. Ci sono. Dimmi. Sì, vai, okay. Vai. Allora, io non urlerò, non vi darò dati, è solo una riflessione. Fondamentalmente io lavoro in un centro antiviolenza a Ferrara, un centro antiviolenza per le donne. Sì. Quindi quelle che sono le tematiche del genere mi riguardano e mi toccano nel profondo, sì. In primis in quanto donna e in secondo in quanto vedo donne vittime di quelle che sono le realtà che le colpiscono. Beh, certo, lavorando in un centro antiviolenza sulle donne... Non esiste un centro di violenza maschile, allora, capito? Prima si parlava... Uno, quindi io non vi voglio stare sopra, quindi diciamo che no, non ma soprattutto devi andare un po' al sodo, oltre aver detto che lavori in un centro antiviolenza sulle donne. Benissimo. Io allora, solo quello ho capito fino adesso. Non mi provocare. No, io solo allora, quello ho capito fino adesso. Io ho capito, allora, lavoro in un centro antiviolenza sulle donne. Bene, perfetto, andiamo avanti. Poi? Allora, uno. Allora, intanto quando si parla di genere negli omicidi per forza si deve parlare di quello, perché nel momento in cui una donna viene colpita da un uomo, ok, di quello si sta parlando. No, punto. Il codice penale non lo prevede. E non si parla di altro. Il codice penale non lo prevede il genere. Ma non ce n'è, ma non ce n'è. Anche perché i media, di che sta parlando? Non ho capito. Sta parlando da sola questa qua. Sta parlando da sola. Sta parlando da sola. Va bene, vuoi fare il comizio da sola? Sta parlando da sola. Vuoi fare il comizio da sola? E fai fatica a decostruirti. Faccio fatica? Si parlava di suore. Faccio fatica? Si parlava di suore a decostruirti. Sì. Perché allora si parlava di suore. No, no, aspetta, perché io non ho capito bene. Hai mai visto delle suore che hanno fatto una carriera nel Vaticano? Hai visto però dei preti che l'hanno fatto la carriera nel Vaticano, no? Quello perché non lo prevede, diciamo, la loro, rispondi lo tu per favore. Ma perché non lo prevede? Ma perché non lo prevede? Ma quello riguarda la Chiesa, chi se ne frega? Delle domande. No, ma quello delle io non posso perché seguire sul centro antiviolenza femminile. E noi dobbiamo girare con gli assorbenti nascosti nella borsa. Senti, ma tu no, giusto in un centro antiviolenza sulle donne potevi lavorare, te lo dico subito. Mi pare abbastanza che è scontata questa cosa qua. Fai una cortesia. Hai parlato di suore ed assorbenti, per cui fammi una cortesia, se devi dare dei dati devi diffondere delle notizie. Io sono poco. Ma di che sta parlando questa qua? Ma di che sta parlando? Io non ho capito di che stai parlando. Ma di cosa vuoi parlare? Di cosa? Non ho ancora capito di cosa vuoi parlare. E se è un minuto e mezzo. Tu mi stai attaccando senza argomentare. Hai parlato di suore e di assorbenti, amica mia. Suore e assorbenti hai parlato. Suore e assorbenti, di che parli? No, assorbenti, beh, ma certo, perché se avessi tu le mestruazioni ogni mese dovresti nasconderti come me, capito? E allora? Questo è il punto. E allora, no, allora è ora che bisogna che ne parliamo. Di cosa stiamo parlando? Di cosa, di che, senti, Parenzo, rispondi tu per favore. No, non riesco a capire con tutta la buona volontà, davvero. Io non riesco a capire una cosa. Allora lei lavora un centro antiviolenza per questa donne. Qua vuole essere mandata a fare in culo da me, questo dico, è evidente, benissimo, no? Infatti dico, non esiste un centro antiviolenza per uomini. Vabbè, altra cazzata, ma comunque andiamo avanti. È abbastanza evidente. È una cazzata perché esiste a Ferrara, esiste anche a Firenze. Si, senti, chiama Eleonora, prima maltrattanti. Allora, prima che io ti mandi, abbassatemi un attimo questa qua, prima che io ti mandi a fare in culo in maniera severa, forte, dimmi una cosa sensata, una cosa sensata e poi tranquillamente finiamo questo intervento. Una, prima che ti mandi a fare in culo in maniera severa, prima, una cosa, dimmela avanti. Niente, non abbiamo fatto in tempo, via. I'm a real wild one. Una roba incredibile, Queste sono le persone che la pensano come te, No, beh, e come no? Non so cosa pensa, quindi è difficile. Ecco un'altra. Daniela Martani con noi. Buonasera. La violenza è uomo. La violenza è solo degli uomini. Sì, beh, questo può essere anche dai, vero. Dai, su, Daniela, pure te la pensi così, dai. Ma io non ho detto che la violenza è solo dell'uomo. Ho detto che statisticamente è ad appannaggio degli uomini. Tu questa cosa la vuoi negare? Ma che vuol dire? Ma è chiaro che se il potere è degli uomini, no, la violenza, potere, la forza, quello che ti fisica. Pare. Ma stiamo dicendo delle banalità, non assolute. Il potere, la forza, e mica tanto però. Intanto ammetterlo vuol dire fare la legge però. Allora. Ma legge di cosa? Quale legge? Ci sono quella le leggi contro il femminicidio. Ma cosa vuol dire? Questa è la conseguenza storica, è ovvia, no? Cioè, no, ma non è quello. Ma quindi, scusami, Cruciani, se il potere appartiene agli uomini, quindi noi dobbiamo difenderci da questo potere, se è sopraffazione, se No, ma tu hai detto un'altra cosa, però hai scritto un'altra cosa: gli stupri, sì, le violenze contro gli animali dipendono solo esclusivamente dagli uomini. Beh, questo è scritto. Questo. Io ho detto che dipendono principalmente dagli uomini, ma questo è statisticamente provato, non è che lo dico io. No, ma l'hai detto con grande enfasi: cioè gli uomini sono i grandi colpevoli di tutte le nefandezze possibili e immaginabili. Beh, dunque, basta aprire un libro di storia e vedere dunque, che le grandi... dunque? Basta aprire un libro di storia. Va bene, d'accordo, ma metti che sia che così. Praticamente tutte le guerre, distruzioni, i predomini, gli schiavismi sono tutti stati fatti da uomini, non certo da donne. E dunque? Insomma. E dunque? E quindi secondo me il problema principale di questo pianeta è proprio la presenza del genere maschile sulla Terra. E dunque che dobbiamo fare? Dobbiamo ammazzare un po' di uomini? Che dobbiamo fare? Questo no, purtroppo non possiamo fare niente. È come guarda, è come un batterio che dovrebbe essere eliminato, però comunque non eliminiamo batterio gli uomini, allora mi pare un po' assurdo un questo signore, con tutto il rispetto, però... Penso che la presenza maschile sia una sorta di bug, quindi un bug. Ma lei come farebbe senza un uomo? Scusi, senza un uomo come fai? Adesso non voglio entrare. Senza gli uomini come mi faccia? faccio benissimo perché sono single da un sacco di anni, quindi insomma, vivo. Beh, quello sono problemi, sono problemi tuoi, però senza un uomo non potresti nemmeno avere storielle così di come dire, di una botte via, per esempio. Guarda, le donne riescono a stare senza sesso anche per tutta la vita, quindi questo non è un problema. Forse è vero. Ma chi l'ha detto se le donne riescono a stare senza sesso tutta la vita? Ma più degli uomini, questo è vero. Chiediamo al sessuologo, al nostro amico. Ma non dite stronzate, dai. È vero, questo è vero. La verità. È la verità. No, ma non è vero, comunque, che le donne... No, non so se tu lo sai, che comunque se tu vai a vedere i dati del Ministero dell'Interno, hanno verificato che negli anni dal 1992 al 2006 si conferma appunto la visione di una donna meno aggressiva dell'uomo, cioè il 92,9. Ma no, che cosa strana, che gli è commesso dagli uomini, mentre il restante 7,1 è commesso dalle donne. Dunque possiamo fare a meno degli uomini, possiamo fare a meno degli uomini. Vogliamo parlare di Mao Zedong, che ha ammazzato quasi 60 milioni di persone? Vogliamo parlare di Hitler? Vabbè, non c'è bisogno di parlare di Hitler, lo conosciamo. E dunque gli uomini sono delle uomini donne, sono un bug. Gerarca nazista anche. Gli uomini sono campi. Un bug, praticamente. Sono praticamente un batterio che si potrebbe eliminare. Ma Martani, che nei campi nazisti sì, c'erano anche le donne? Purtroppo sì. Chiaramente diciamo che posso dire che le cause possono essere diverse, ci sono anche cause che derivano chiaramente da la cultura e la però scusami Daniela, tu dici che le donne possono fare a meno del sesso, ma non è vero, dai, su, ma non assolutamente dire. Vero, ma non è vero. Beh, che le donne degli uomini sicuro, ma non è vero, dai ragazzi. Vabbè, chiediamo al dottor Bossi personale, guarda, cioè da quant'è che non scopi, scusami, ma non è che ti devo dire da quanto non scopo io, per esperienza personale ti posso dire che sono stati dei periodi molto lunghi in cui io non ho avuto neanche, guarda, non ho neanche sentito la necessità, quindi vivo benissimo anche senza, non è un problema. Ma per carità, ma ognuno poi, assolutamente. Quante voti hai preso alla fine? Tu nel primo turno 141, ti hanno preso per il culo che ne hai presi 26, 25, 24? Sì, 141 sono stata la seconda più votata, però il problema purtroppo è che sono stati verdi che non hanno preso molti voti a Roma, perché invece negli altri comuni, a Bologna, a Napoli, hanno raggiunto il quorum, anzi addirittura che vuoi fare? Anche il 5%. È andata male. Stupisce l'alleanza purtroppo lo devo dire, l'alleanza col PD non ha giovato comunque. Per cui chi voti tu al secondo turno? Ma io non lo so, ci sto pensando, quindi dai, non sarà mica la decisione del secolo, avrei deciso se Raggio Giachetti. Ma per darsi pure che non voti, quindi adesso... Ma scusa, sei stato in coalizione con Giachetti, che fai adesso? Non lo voti, non ho capito, al secondo turno. Ma io veramente non saprei in questo momento cosa fare, se sto pensando, sto riflettendo. Senti, non è che ma... come una persona, cioè io non ero con i Verdi, quindi non è... Non voti un uomo, mi raccomando, non voti appunto, un uomo. Vorrei vedere una donna cosa fa il potere, mi piacerebbe. Quindi allora voti la Raggi, allora vota la Raggi. Sarebbe curioso di capire che cosa potrebbe o voti fare un donna, cane no? Se fosse un cane, Caligola candidò il suo cavallo. Ma un cane potrebbe amministrare cane. Meglio Roma, secondo te, un cane? Dai, Luciani, ti prego, ti prego. È un cane, sindaco di Roma, perché no? Cioè, c'è un cane, un gatto, che ne so. Un cavallo, come Caligola un fece cavallo, il nostro senatore, il proprio cavallo. Un cane può essere molto più affettuoso di tanti uomini. Vabbè, quello sono idee tue. Immagino un bel cane in consiglio comunale che guida le riunioni. Bau, bau, bau, bau, bello. Senti, a proposito, la valvola che hanno messo a Berlusconi è di cellule di suino. Beh, quindi? Hai visto? Meno sì. Male che gli animali servono a qualcosa alla fine, no? Cioè, a salvare, no? Attraverso le loro cellule, attraverso i loro tessuti, a salvare qualche essere umano dal crepacuore, amica mia. Veramente ci sono tantissime persone che sono state salvate non attraverso questo intanto metodo. Intanto, Berlusconi ha una valvola di carne suina. Cioè, non facciamo battute sui suini, le cose, perché non ha senso. Non credo che fosse necessario usare il suino per salvare la vita di Berlusconi, però insomma io conosco tante persone che si sono operate al cuore. Capito, ma amica mia, quello era di cellula suina, c'è poco da fare, è così. Cioè, Se le fanno a base di suino, ci sarà un motivo, no? Non è che sono cattivi. Capace di pensare a forme alternative oltre a questo. Il Papa ha difeso i circensi, meno male, ha accolto quelli del circo. È vergognoso per quanto mi riguarda. Non è proprio degno di portare il nome di Francesco, perché San Francesco ha avuto un'importanza storica dal punto di vista animalista, molto, molto. Ma le domava le bestie San Francesco, però, No, ci parlava. Ma lei vuol dire domava, le domava. Non è che no, ci parlava. Ma non ho capito, ma qual è il punto? Il Papa ha accolto quelli del circo. Punto e basta. Ha accolto quelli del circo, ha tentato di accarezzare pure una tigre. Proprio oggi ho dato la notizia che la comunità valenziana, quindi Spagna, stiamo parlando di uno dei paesi che non è proprio allora? Il massimo con gli animali, ha approvato finalmente il divieto del circo con gli animali. Cioè praticamente tu consideri il Papa un mezzo criminale perché ha accolto degli schiavisti, il Papa è uno specifico ecologista e non gliene frega niente degli animali, anche se tra l'altro è anche in contraddizione, perché non so se ve lo ricordate, nel Laudato Si, nel famoso lui ha parlato degli animali come creature di Dio che devono essere rispettate alla stregua delle persone. Vabbè, ha colto questi dei circhi, vabbè, dai. Non l'ha fatta, anche la persona del Giubileo, lui ha Ma tu sei vaccinata? Tu sei vaccinata, Daniele? Penso che mi abbiano vaccinata quando ero piccola, sì. No, volevo capire. Mi scrivono, ma chi è questa stronza odiosa? Adesso non dirò chi mi scrive. No, perché è odiosa? Stronza odiosa? No, lo so, è una signora Ti volevo dire, fra l'altro, no, scusami. Non è dimmi, Daniela, dimmi. No, ti volevo dire che, fra l'altro, non so se lo sai, che Facebook ha fatto uno studio riguardo la violenza che viene esplicata sui social. E indovina un po' chi sono i più violenti? Gli uomini. Sono gli uomini. Cioè, ragazzi, capisci? Senti, non mi fare rispondere. Ferma lì che ti voglio dire una cosa. Ma il coccodrillo. Guarda, il coccodrillo col bambino. Non l'avresti ammazzato te il coccodrillo? Quello là col bambino che è morto, purtroppo. Ma io dico una cosa, no? Ma ti pare a te che intorno a un parco giochi ci deve essere il lago con i coccodrilli? Ma a voi sembra una cosa normale? A me sembra una cosa normale. Ma ho capito, ma se il coccodrillo, se il bambino va a finire là. Deve essere una recinzione, qualcosa che protegga. Ma per me la follia è sempre umana, mi dispiace. È sempre i coccodrilli fanno i coccodrilli. Gli uomini sono dei deficienti, punto. Vabbè, fermali, ciao Daniele, ciao. Ormai è tutto degradato. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta La Zanzara. Ciao Cruciani, ieri sera stavo lavando i piatti e a un certo punto ho avuto un bisogno impellente di pisciare. Ho pisciato nel lavandino della cucina. Gente come questa gli andrebbe tolto il bambino dalle mani e presi a schiaffi per 36 anni di fila su una pubblica piazza. Caro Cruciani, anche se so che tu li difendi, ma non c'è pietà per chi è spietato con un bambino e l'ha strappato dal ventre della madre senza dargli nemmeno la possibilità di vederla in faccia, di succhiare il suo seno con gioia come tutti i bambini del mondo. Fanculo Vendola e il suo amico Ed, chissà che non caschi meno di rotto. Esempio di bestialità. Silvio Vicenza, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. Io ascolto La Zanzara da tanto tempo e mi dispiace un po' fare questo intervento, però devo farlo. No, fallo. Dopo aver chiamato, credo, quasi una trentina di volte negli ultimi mesi senza mai essere riuscito a parlare, sono arrivato a contatto casualmente con una persona che conosce molto bene la vostra trasmissione e mi ha spiegato, anche per rispondere a quello che aveva detto Parenzo un po' di tempo fa, che il motivo per cui, come stasera, più del 90% di quelli che chiamano sono mezzi dementi, deficienti o decerebrati o simili, non è un campione statistico della popolazione, per fortuna. Sì, ma vai al sodo, Silvio. Risponde ad una precisa direttiva editoriale. Non c'è nessuna direttiva editoriale. Io lo so il trucco che hai fatto, è inutile. Non c'è nessun trucco. Ecco. Io ho scelto questa sera, per rispondere alla signorina, ho capito perfettamente, uno degli argomenti più biechi, volgari, rivoltanti che potevo trovare. Sì. E dopo un'ora sono stato chiamato. Sarebbe stata la stessa cosa. Non capisco il tuo perché esperimento altre volte è un successo. Perché evidentemente non c'è la cosa, c'era troppa gente oppure non. Non è convincente questa cosa. L'esperimento sociale di Silvio. Ma avete toppato. Sì, guarda, ma cosa abbiamo toppato? Io non so nemmeno di che stai parlando. Silvio, senti, gli esperimenti. Penso che dovreste bilanciare meglio, dare un minimo di copertura a questo discorso facendo ogni tanto intervenire anche persone che dicono delle cose normali. Caro Silvio, io faccio intervenire in questa trasmissione, tutti, chiaro? Se tu pensi con un trucchetto, cioè dicendo una cosa violenta e poi dicendo per entrare e poi dicendo adesso mi avete chiamato per quello, di essere un paraculo, no. Sei semplicemente un coglione che ci ha fatto due palle così per tre minuti, per tre minuti su una cazzata, capito? Chiaro? Avete fatto un sei semplicemente un coglione. Sei intervenuto quattro volte. Mi segnalano. Sei intervenuto già quattro volte. Sei un coglione. A casa, via. Chiamiamo Vittorione, va. Vittorione, vediamo. Su questa storia di Di Pietro, vai. Di Pietro che vuole i soldi, 200-300 mila euro. Questo lo sappiamo noi, lui dice centinaia di migliaia di euro. Vittorio, rispondi a sto telefono, è un'ora che te cerchiamo, dai. Pronto? Vittorio? Sì. Sono Cruciani, ciao. Oila. Senti, ma è successo un casino con Di Pietro, hai sentito? No, cosa è capitato? Allora, ha detto che praticamente tu fai parli in televisione, ma in realtà gli italiani devono sapere che sei uno che non paga, gli devi centinaia di migliaia di euro per sentenze passate in giudicato e mai date, eccetera, eccetera. Sei un mal pagatore, ha detto, inaffidabile e mal pagatore, così ha detto. Sembra una cosa irrilevante. Non voglio fare il vostro gioco inutile con un poveretto fallito. Cioè, non me ne frega niente, no? Non interessa. No, ma ho capito, ma siccome lui parla e dice... Ma non mi interessa Di Pietro, né? Perché, si rilegga la lettera di Cagliari. Cioè, perché non sta tranquillo? Uno che ha messo in moto una macchina perché sono uccisi Cagliari, Moroni, se la prende con me e mi chiede dei soldi perché ho detto la verità? Beh, lui dice parla tanto, invece rispettasse le sentenze, ci sono 7-8... Non rispetto le sentenze, le conosco fin troppo le sentenze di gente che viene condannata non avendo fatto nulla. Quello che lui ha fatto, la gente lo sta giudicando. Vorrei sapere il suo rilievo politico davanti a... se fosse così bravo avrebbe il successo che non ha. Quindi... No, però è andato oltre, ha detto è un mal pagatore inaffidabile. Ma sono contento, ma sono felice di non pagare. Mi mancherebbe che pagassi Di Pietro. Lui sembra onesto, andare a prendere dei denari dalla gente solo perché parla. Se uno parla, lui arresta le persone. Lui le mette nelle condizioni della disperazione e io dovrei pagare, ho capito. Che paghi lui. No, tra l'altro dice è nulla tenente. Sono nulla tenente. Appunto, con tutti quelli come lui e Caselli che cercano soldi perché uno parla, qual è il reato di parlare? No, beh, ci sono delle diffamazioni. No, c'è diffamazione. Ma di che? Tutto quello che io ho detto era quello che andava detto. Sì, no, ho capito. Dei giudici hanno riscontrato che c'è diffamazione, quello lui dice. E l'hanno... I giudici sono amici suoi, hanno fatto benissimo. È il loro mondo, la loro casa. Tu dici è difficile vincere con Di Pietro in tribunale, dici? No, non dico niente, non è vincere avere una sentenza, vincere avere credito e stima delle persone. Io certamente ho, di lui non lo so. No, ma in ogni caso ha detto anche altri creditori, c'è una fila così di creditori. Cioè... Per questo verrà quello dato, perché gli unici creditori sono lui e Caselli. No, c'è anche Bonito Oliva. Anche Achille Bonito Oliva. Un altro buono, siamo di fronte a... Vabbè, Bonito Oliva è un critico d'arte, dai, su, cioè è famoso, dai, adesso non esageriamo. Che sia famoso non vuol dire niente, non ha fatto niente di utile e niente di cui si possa parlare. Parliamo di cosa? Parliamo della Pascale. La Pascale, vabbè. Beh, no. Il giudizio sulla Pascale coincide con quello della figlia di Berlusconi. Perché è stato male Berlusconi? Perché gli hanno aperto il cuore, sì. Non per la operazione, ma perché gli hanno tolto le donne. L'uomo che ama deve amare. Beh sì, questo è vero, sì. Cioè, gli hanno tolto. Da quando io l'ho visto, quelli lì stavano intorno per impedirgli di vedere altre donne. Io le prove, sì. La loro pressione, non per dargli piacere, ma per impedirgli il piacere di vedere altre donne. Uno che non può vedere le donne viene mal di cuore, poverino. Da quello che so, anche nei camerini di Virus, quando è andato lì qualche settimana fa, prima di stare male, hanno impedito a Berlusconi di avvicinare delle donne, o no? Sì, quello di Virus, c'erano delle ragazze molto simpatiche, molto gentile, arrivate lì tra il pubblico, gli hanno impedito di salutarle. Vero, vero, accorto quando salutarlo, che c'erano dietro, guarda, sono delle ragazze. Ah, per carità, non fagliele vedere. Ma dico, ma due deficienti siete. Non se ne parla neanche, che mandino una richiesta via mail. Ma che devono fare? Devono salutare una persona che ammirano o di cui sono in qualche modo fan. Non certo, certo, certo. Le ho trattate come si meritavano. Dico, state zitte, con me queste cose non le dite. Lui vede quello che vuole. Due bestie contro di lui. Ma scusa un attimo, dunque quando Marina Berlusconi pare voglia fare fuori, o la famiglia voglia fare fuori questo famoso cerchio magico. Ha perfettamente ragione. Ma le lacrime della Pascale come le interpreti invece? Beh, era dolorante. Però qualcuno me l'ha detto, ma insomma. Non credo che abbia la ghiandola lacrimale, non credo che possa piangere. Secondo me non può piangere, l'avrà avuto in mano delle ghiandole così di quelle da teatro, no? Cipolla. Senti, un'ultima cosa che ti voglio chiedere è Vendola. Cioè, che Vendola... Ah, su Vendola non parliamo di Vendola, perché quello è un argomento meraviglioso. Voglio fare un articolo per rispondergli affettuosamente, visto che mi cita. Sì, sì. Cioè, la cosa più grave di quello che avviene non è la questione dei bambini che uno può adottare, e sarebbe bellissimo, ma come nella fotografia, io che guardo le opere d'arte, le interpreto, lui stringe il bambino. Sì. In quella stretta c'è egoismo, possesso, ce l'ho, mi hanno comprato un... Beh, che deve fare? Quel bambino non è... È una specie di ostaggio della loro cupidigia, è l'opposto di quello che dicono. Non sì. aiutano un bambino povero, se ne fanno uno per tenerlo lì, stretto fra le braccia. L'immagine è terribile. Se l'effetto della forza di due e fingere d'essere papà e mamma, tenendosi catturato in ostaggio un bambino a cui tolgono il seno materno perché l'hanno voluto fare così, questo è contro quel bambino che non lo ha scelto. Ma non può essere amore quello. Il debole che è lui. Ma non può essere anche amore che hanno verso questo bambino che lo proteggono? Perché non ama te? Può amare tanta gente? No, io amare me, io, ma che gli fa? No, perché lui... non ama i figli di buon anno? Perché non ama i figli? Perché non ama i figli di uno che non ha più il padre? Perché è suo figlio quello. No, lui dice è amore malnato. Lui dice, può amore. Essere amore, ma è un amore perverso, un amore malnato. Ma perché deve essere perverso? Perché deve essere aggettivato? È pur sempre amore. Sì, ma ho detto che è amore, ma c'è l'amore egoistico e c'è un amore vero. L'amore egoistico è uno che vuole possedere, sono gli amori che portano uccidere. Quello che ha ucciso quella ragazza, non l'amava, quello che l'ha bruciata? Quello è l'amore egoistico. Però questo poi lo scriveremo in modo più articolato di questa bella conversazione. Ciao, ciao Vito, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Allora, se non sbaglio, ha paragonato l'amore di Vendola verso il bambino, quella foto che è apparsa sui giornali oggi, sui siti, eccetera, è come l'amore di un assassino verso la ragazza che considera propria, no? Se non sbaglio. Sì, sì. Sì, sì, i suoi paradossi, paradossi sgarbiani. Allora, dove andiamo? Andiamo a Milano, volevo andare. Davide, vai, Davide. Amore malato la definito, dai. Sì, vai, Davide. Non c'è... Gaetano, Bari, vai. Sì, vai. Dimmi, dai, veloce, forza, dai. Volevo fare un intervento sul sindaco di Londra. Sì. Secondo me lui sta facendo i primi passi per diciamo per uno scopo che lui, per cui lui è stato eletto, ecco. Cioè quale sarebbe lo scopo? Quello di cambiare un po' le carte. Cambiare le carte, cosa? Amico mio, qui stiamo alla radio. E vuoi parlare o non vuoi parlare? Gaeta, forza. No, no, voglio parlare. E allora, se non parli, che però... carte cambia? Che cosa vuol eletto, dire? Essendo stato eletto dalla maggioranza degli islamici, penso che lui voglia... No, veramente dalla maggioranza dei londinesi, non degli islamici, appunto, ti voglio segnalare. Che poi abbia fatto una cazzata, ma gli islamici non so chi abbiano votato, non è che c'è il voto etnico, per fortuna. Cioè... Sì, ma questa, chiamiamola cazzata. Vabbè, Renato da Genova, dai, Renato, vai. Vai, Renato, dimmi. Allora, un intervento su quella ragazza che... Togli il viva voce, togli l'auricolare. Non ho il viva voce, sto parlando al telefono. Dimmi, dai. Che non ha rapporti. Mi dispiace per lei, ma do ragione a te, perché praticamente non ha mai trovato un ometto che gli ha fatto venire un bel orgasmo. Finché sono quelle godimenti così... non si può dire niente. Ma non ho capito, a chi ti riferisci? Alla Martani. A chi quella là che dice che non fa sesso da un po' di tempo e si può fare meno degli uomini. Uomini e donne sono uguali. Ma se vuole... Evidentemente ha trovato dei maschietti che non sono capaci. Ma forse non ha nemmeno cercati, forse ha sostituito il sesso col, col veganesimo. È un'altra cosa veloce, che ho sentito quello che che criticava che non l'avete chiamato per un po' di tempo. La prima volta che chiamo, mezz'oretta, mi avete chiamato a me. Ma sì, ma non sono tutte cazzate, cioè, degli esperimenti tutte di questi ascoltatori che dice cazzate. Vediamo se mi chiamano, dico una cosa pazzesca, una cosa violenta, mi richiamano subito, a parte che l'abbiamo chiamato dopo un'ora, cioè, per cui di che stiamo parlando? Ragazzi, a domani, vai. Tra Parenzo e Cruciani non riesco a decidere chi è più cretino. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.